Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Il Re di Girgenti dal romanzo di Andrea Camilleri. Scritto, diretto e interpretato da Massimo Schuster e Fabio Monti. Povero scecco mio, che vada buccia via, pare un grande onore, sceccare do de me cuore, come io dai a scordare, e quando cantava faceva, i-o, cicaretto de me cuore, come io dai a scordare. Abbiamo cicaretto davvero cercare tu del lume fuori, come io dai ascoltare, cercare tu del lume fuori, come io dai ascoltare. Questo era per informare. Poiché la grande storia che stiamo per raccontarvi in Sicilia. Storia, prima di tutto, scritta sotto forma di romanzo da un autore che tutti voi conoscete, Andrea Camilleri di Porto Empedocle. E visto che siamo in Sicilia, anch'io che vengo da Milano, a partire da questo momento dovrò parlare siciliano. Fino. Aiuto! Oh, ma io con quelle cose ci potrei campare 100 anni. Lo lascio morire e poi mi accatto i resti. Aiuto! E aiuto sta minchia! Ma come sta minchia? Ma tu lo sai chi sono io? Io il principe, Don Filippo Pensabene di Baucina sono. e a me che me ne fotte. Salvami, che se non mi salvi poi finisci nelle fiamme dell'inferno. Le fiamme dell'inferno? Per l'eternità eterna, dopo una vita di miseria. E no, io lo salvo. Arrivo e sbrigati! E queste signore sempre di Brescia sono. Arrivo, eccomi qua, datemi la mano! E come faccio a darti la mano? E datemi i figli almeno! Assalite! Ecco, eccomi qua! Aiuto, eccomi qua! Ah, ah. Oh, mi hai salvato la vita! Dovere, dovere, eccellenza! Come ti chiami? Sosimo Gisuè. E qual è il nome? Gisuè. E che fai? Lavori? E quando capita? Domani, per esempio, ci sono da cogliere le olive. E tu sai chi sono io? Certamente. Vossia è Don Filippo, padrone dei feudi di Trasatta, Tumminello, Argirà e Ponentino. Lo sono e non lo sono. Eccellenza, io vitrano sono. Le cose complicate ho bisogno che me le spiegano. E io te lo spiego. Io sono ancora quello che c'ha quel nome, ma non possiedo più i miei feudi. Non possiedo più nulla, nemmeno la mia casa. Eccellenza, e come avete fatto a perdere tutto? Con le carte. Le carte? Le carte da gioco. Ho giocato con quel cornuto del duca Sebastiano Vanasco Pessi Pesca e mi imbrogliò. Quando un nobile si fa imbrogliare, non può rivolgersi alla legge. E la legge? Tu lo sai chi comanda in Sicilia? È un re di Spagna. Però un re se ne sta in Spagna. E qui c'è il viceré con sua figlia Isabella. Tu lo sai chi è Isabella? E vossia lo disse Aurora. È la figlia del viceré, ma non solo, è pure la moglie di quel fituso di Pesci Pesci che mi imbrogliò. Ed è per questo che mi gettai dentro al burrone. Vossia si gettò dentro al burrone, da dove tu mi salvasti. Perdonatemi, eccellenza, io non volevo, perdonatemi, ma che perdonarti a perdonarti? Ma eccellenza, vossia chiesi aiuto, è certo che chiesi aiuto, ma quello fu l'istinto di sopravvivenza. Io morire volevo, ma l'istinto rifiutava. Mi hai salvato la vita, ora per farti perdonare, devi ammazzarmi. Come? Mia eccellenza, io ho paura. Paura di chi? Del capitano di giustizia, dei magistrati, che poi viene sempre fuori uno che ha visto tutto e mi accusano della vostra morte. Ma se non c'è nessuno che ci vede? Me lo ordinate? Te lo ordino. Oh, guardate laggiù, c'è qualcuno che guarda. E dove? Laggiù! Ma se non vedo nessuno, è che siete troppo lontano, andate a vedere più da vicino. Ma dove? Do laggiù, vi dico. Ma chi c'è? Chi c'è? Io! Ah! Ai vostri ordini, eccellenza! E com'è? Come non è? Il giorno dopo, Gisuè fu accusato della morte di Don Filippo e fu sbattuto in carcere. E in carcere andò a trovarlo proprio il già citato duca Sebastiano Vanasco Pessi Pessi. Il duca, benché uomo potentissimo, aveva un problema. Tengo un problema. Non aveva figli. No tengo hijos. E sua moglie, donna Isabella, proprio la sera prima glielo aveva detto chiaramente. Sebastiano? Estamos esposados desde 4 años y todavía no tenemos hijos. Lo sé, lo sé. Y es porque tú no seas capaz de procrear. Oh, perdóname, marido mío, pero yo soy segura de no ser estéril. La verdad que siempre Santa Teresa de Ávila nos ordena de decir es que cuando el tu fluido viril me penetra nel cuerpo. Ia stato frio e como muerto. La verdad es que tú no sois un hombre. Il duca non aveva chiuso occhio tutta la notte. Aveva percorso le stanze del castello avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, per tutta la notte, fino a quando all'improvviso, all'alba, gli era apparsa la soluzione. La soluzione? E aveva mandato a chiamare il prigioniero. Sei stato condannato a muerte. Ma come, eccellenza? Senza processo. Hai matato il principe. Ma fu lui a ordinarmelo, eccellenza. Y es porque soy venido a salvarte la vida. Oh, grazie, eccellenza. Se farai lo que te digo, potrai continuare a vivere. Dite, dite, eccellenza. Tu devi passare una notte con la mia esposa, Donna Isabella. Deve onorarla hasta la ultima goccia del tuo fluido virile. Eccellenza, mi state dicendo che per avere la vita salva devo ficcare vostra moglie? Esattamente e correttamente. Quello che posso, fazzo. Fazzo, fazzo. E Gesù fece. E al mattino se ne tornò a casa sua e forse per perdonare a se stesso d'aver passato la notte a ficcare la moglie di un nobile, ficcò pure la sua, che di nome faceva Filonia. E così, 9 mesi dopo, mentre Donna Isabella se ne andava in Spagna a fare nascere il suo primogenito, più o meno negli stessi giorni, la stessa cosa accadeva in Sicilia, a Filonia. Filonia se ne stava in campagna, a spaccare la legna da sola. Con la sua pancia enorme, l'accetta volava. Un colpo, un altro colpo, un altro colpo. Era caldo, il sudore ne scendeva. Un colpo, un colpo, un colpo! Fino a quando una fitta più forte delle altre le fece sentire che il momento era arrivato. Una sua amica, Gesuina Padillo, le aveva detto per filo e per segno tutto quello che c'era da fare in quelle occasioni. Aveva 14 figli. A Filone ci vieni di trasire in casa. Poi pensò che no. In casa a partorire l'avrebbe allordiata tutta, che lei la teneva come uno specchio, no? Allora lì in campagna, così come si trovava, radunava 80 di paglia, ci si mise di sopra, si spogliò nuda, si sdraiò e cominciò a spingere. E a spingere. E a spingere. E a spingere. E poi una spinta più forte le bagnò tutte le gambe. Erano le acque che aiutavano a uscire la testa del bambino che si vedeva ora. Allora Filonia si guardò intorno, vide che non c'era nessuno e cominciava a fare voci. Si arrotolava tutto l'armalume consistente in il cane randagio che si era installato in casa e che tutti chiamavano senza fantasia ucane, la capra circentana con le lunghe corna di liocorno, il lungo pelame marrone, grandi minne scure, e poi 4 galline con dietro il gallo che da quando arrivò cominciò ad andare avanti e indietro nervosamente, nervosamente, nervosamente. Mentre Filonia spingeva e urlava, spingeva e urlava, spingeva e urlava, fino a che punto tutto di botto venne fuori un piccilino. Lei lo guardò e vide che era un mascolo. Se ne rallegrò tutta. Pensò che l'avrebbe chiamato Michele. E chi si era femmina si chiamava Rosalia, invece era mascolo. E le mascole sono la fortuna della casa, la gioia della famiglia. Allora prese il cordone ombelicale, la gran dentata, lo annodò, lo prese per i piedi e lo sollevò e ci rese una gran botta sulla schiena per farlo respirare meglio. E lì capitò un fatto. Perché il bambino, invece di mettersi a piangere come era naturale, cominciò a ridere. Girò la testa, aprì gli occhi, la guardò e rise. E rideva come un uomo grande, a gola piena. Ilonia dovette farsene persuasa, ridendo. Appoggiò al lato e allargò le braccia per respirare dal vecchio. Sulla mano mancusa le cadio un ovo, il regalo della gallina. Lì sono vicino alla bocca, ci vicino il tuso. E se lo sugò. Poi le sembrò che si era oscurato il sole. Alzò la testa, vide che la capra girgentana le aveva messo sopra la faccia le minne scure pronte per essere munte. Oh, un latte caldo bello che ci giaceva nelle ossa. Poi vide che il cane si era leccato tutto piccilino, l'aveva pulito tutto. E quando da un'altra contrazione venne fuori la mamma, la placenta, un cane se la mangiò. E fu così che Michele Zosimo venne al mondo. Di Michele Zosimo, nato contadino e diventato re. È la storia di come un semplice veterano combatté contro i nobili, contro i preti cornuti, e lì e poi si sedette sul trono di Girgenti. Zosimo, Zosimo, dacci umani, dacci lavoro e libertà. Questi cornuti e gli spagnoli mandare a casa calci in culo, buttare a mare con il falcone. Zosimo, Zosimo, sei il nostro re. E questa è la bella storia di come Michele Zosimo non si fermò davanti a niente e a nessuno, perché il suo destino era di vincere. Il suo destino era di mandare i nobili, i borghesi e i preti cornuti a catafottersi da un'altra parte. Zosimo, Zosimo, quando sei bello, quando sei forte, quando sei bravo. Zosimo, Zosimo, a me la grazia che la mia panza sia sempre sazia. Ma nell'amore e libertà, Zosimo, Zosimo, sei il nostro re. E questa è la grande e tragica storia di come Michele Zosimo si fece fottere da quelli stessi che credeva che stessero dalla parte sua e invece se ne stavano sempre solo dalla loro. E poi quella è sempre la parte della vigliaccheria. Zosimo, Zosimo, fagli vedere a quelli stronzi degli signori come si vive, come si muore, come si campa e come si schianta nel nome della libertà. Zosimo, Zosimo, sei il nostro re. E questa, signorina, è la bella storia di come Michele Zosimo se ne andò dalla vita esattamente come c'era arrivato, senza tristezza, senza rimpianti, con la sola voglia di vivere da uomo vero. Zosimo, Zosimo, dacci umani, dacci lavoro e libertà, questi cornuti degli spagnoli mandare a casa calci in volo, buttare a mare con il forcone. Zosimo, Zosimo, sei il nostro re. Zosimo, Zosimo, sei il nostro re. Che Michele Zosimo I suoi genitori lo capirono da prestissimo. Un giorno suo padre, Gesuè, stava lì a mangiarsi una sarda condita con l'aceto, quando il piccinino alzò il braccino e disse: "Da!" Gesuè staccò un pezzettino di sarda, ce la mise in bocca, il piccinino se la mangiò, poi rialzò il braccino e di nuovo disse: "Da!" Gesuè staccò un altro bocchello di sarda, gliela rimise in bocca, quello se la mangiò e si spaccò la faccia in un sorriso di contentezza. E a partire da quel giorno mai più il piccolo Michele s'attaccò alle minne di sua madre. Tanticchia di sarda, un pezzettino di cacio, due olive, due dita di vino, questo gli bastava alla vita. Ci aveva 7 mesi. Quando gli fecero assaggiare per la prima volta il cacio all'argentera, oh. Il cacio all'argentera, il cacio stagionato, tagliato fino fino, fatto fritto col pomodoro, condito con l'aceto e con l'origano. Lui se lo mangiò e poi disse: "Buono!" Gesuè e Finonia, mamma Malucchino, c'era mai visto un piccinetto di 7 mesi che parlava? Forse avevano sentito male. Per scrupolo, Filonia ci chiese: "Che dicisti?" Il piccinetto rispose: "Diventasti voi sordi? Dissi che è buono!" Per quello che c'era da imparare, Michele Zosimo lo imparò fin da bambino. E la prima cosa importante la imparò a 4 anni, mentre era solo a giocare in un campo, vicino a casa, da un forestiero di passaggio. Piccinetto, come ti chiami? Michele Zosimo. Ma tutti mi chiamano Zosimo. Ah, come lo papa. E perché? Lo papa, pure lui si chiama Zosimo. No, non lo papa nostro. Un altro, antico. E voi come lo sapete? E io saccio tante cose. Ah, siete avvocato. No, io sono il mago Apparenzio. Un mago. E che resta essere un mago? Un mago. Un mago è uno che parla con le stelle, con la luna nel cielo. Uno che sa quando sono le giornate buone, le giornate tinte. Uno che dice l'avventura. E a chi la dite l'avventura? E a chi lo vuole? Ma allora potete dirmela pure a mia. E se lo vuoi, dite, dite. Vediamo. Quant'anni c'hai? 4 anni e mezzo. E che stai babbiando? No, ma e così a faccia il conto. Io sono nato il 20 di giugno del 1670. Ah, il giorno di San Metodio. E a che ora nascisti? E mi dissero che fu tanticchia dopo pranzo. Oh, strano, strano. Ma dimmi, tu lo sai di ligiuto e di scrivuto? Non sì. Li conosci i numeri? Non sì! Molto, molto strano! E che c'è di strano? Io figlio di vetrani sono! Ne conoscete molti di vetrani che sanno leggere e scrivere? No, ma quello che c'è di strano è che quando io ti guardo vedo una cosa che già c'è, ma che nessuno vede. E che c'è? Se te lo dico, mi prometti di non dirlo a nessuno, nemmeno a tuo padre e a tua madre? E ve lo prometto. Io, quando ti guardo sopra la tua testa, ci vedo una corona. Una corona. E che resta a significare una corona? Questo lo saprai quando sarà il momento. Ma dimmi, tu che vita vorresti? Io una vita come il signori me la manda. E bravo, piccirito, E quella ci avrai, quella ci avrai. Anatema, anatema, combattemus diavolunes, in nomine signori, e alleluia, alleluia, Jesus Christus nostrus, combattemus diavolunes. Che succede? Che è tutto questo bordello? Oh, sei tu, Michele Zosimo, figlio di Gisue e di Felonia? E io sono. E sei tu quello che, come mi raccontarono, parlò all'età di 7 mesi? E quello me lo raccontarono pure a mia. E perché parlasti? E perché? Perché mi vinne. Risponde, perché parlasti? E perché uno parla? Per dire cose. Ma quando parli, parli in nome di Dio o dello diavolone? Io veramente parlo a nome mio. Eppure io sento puzza di bruciato, sento puzza di diavolone. Ma che diavolone? Quello è mio padre, che ha bruciato l'erba nel campo accanto, che poi ci deve seminare. C'è un solo modo per conoscere la verità. No, no. Tu! Io? Tu! Avvicinati! Sì. Peccatore screanzato, vuoi tu guadagnarti un'indulgenza? Certamente. La tieni una croce? Sì, ce l'ho. E picchia! Eccola. Lo sai che succede quando una croce viene posta sopra la testa di un diavolone? Veramente no. Che il diavolone si mette a gridare a bocca aperta e che dalla bocca gli escono dei serpenti? No, non lo sapevo. Vieni, poni la croce sopra la testa del piccilino. Sì. Così? Più vicino! Sì. Così? Più vicino! Così? E dacci un colpo in testa! Aie! Come aie! Ma quel fiducio mi diede un colpo in testa! Miracolo! Miracolo! Tu non sei posseduto dal demonio! Tu sei stato toccato dallo Spirito Santo! Ah, quello lo Spirito Santo era. Piccilino, a partire da oggi ti prenderò con me e ti insegnerò tutto ciò che devi sapere, a leggere, a scrivere, ti insegnerò i numeri, ti farò leggere tutti i miei libri, non dire nulla! Seguimi, camminiamo sulla via del Signore! Oh, alleluia! Alleluia! Combattemo diavolones! Anatema contro lo speccatore! Quello che avete appena visto, altri, non è che padre Ugo Ferlito, meglio conosciuto come padre U. Padre U non è sempre stato così. Quando era giovane, a 25 anni, si era fatto la nomea di essere un prete buono, un uomo onesto, di parola, che si spaccava gli occhi sopra i libri. Tanto che era diventato segretario del vescovo di Monteluso. E un giorno il vescovo lo mandò a chiamare per affidargli una missione importantissima. Caro figlio, voi certamente sapete cosa stabilì il sinodo di Braga del 453. Veramente, eccellenza, in questo momento mi sfugge. Il sinodo di Braga lanciò l'anatema contro coloro che sostenevano che il diavolo possa scatenare fulmini, tempeste, carestie e altre disgrazie per propria volontà. Ah sì, certamente. Ma Adobardo da Lione nell'840 corresse l'opinione del sinodo, asserendo che il diavolo può fare tutte quelle cose per volontà del Signore, per preceptum Dei, esattamente. Ora dovete sapere che il feudo del barone Argirò è stato invaso da milioni di lumache che stanno distruggendo i raccolti, divorando tutto. E i contadini sostengono che dentro ogni lumaca c'è entrato il diavolo. Oh, madre di Dio! Io naturalmente ho seguito le istruzioni del sinodo di Macon del 1481, che stabilisce che in questi casi i preti debbono ammonire le lumache una, due, tre volte e ordinare poi loro di astenersi dal divorare i raccolti. Certamente, Eminenza, ma... E se le lumache non obbediscono? Allora vanno maledette e scomunicate! Ah, naturalmente! E io di questo ho incaricato il nostro esorcista, padre Stanislao Cumella. Ma voi conoscete padre Stanislao, sapete che quando si tratta di esorcizzare, lui certe volte esagera e si lascia andare. Voglio che andiate a verificare che sta facendo tutto secondo le regole. Ai vostri ordini, Eminenza, ci vado immediatamente. E padre Ferlito se ne partì. Attraversò le campagne, attraversò i corni, i campi, le pianure. E quando arrivò nei pressi del feudo si accorse che aveva fatto tutto il tragitto a testa bassa, aveva tanti pensieri in testa. Di fronte al feudo alzò gli occhi e lì vide. E le lumache erano miliardi. Lumache sugli alberi, per terra, sugli animali, sul raccolto, ovunque lumache. E quella sicuramente opera del diavolone deve essere. Col cervello imparpagliato provò ad avanzare, ma le lumache, schiacciandole, diventano come la colla e allora camminare è difficoltoso, oppure come il ghiaccio e rischia di scivolare in terra e cascare lunghi a destra. Cominciò a cercare intorno dove era padre Cumella e poi in un campo vicino vide che c'erano una ventina di contadini, mascoli e femmine in ginocchioni, con in mezzo un uomo. Quello sicuramente era padre Cumella, si avvicinò tanticchia e poi vide che l'uomo aveva in una mano un ramo d'ulivo, in un'altra mano una croce ed era completamente in mutande. Saltellava, roteava, danzava. E sicuramente era in mutande perché il gran caldo e il rito lo avevano affaticato. Però le facce dei contadini erano un pochino perplesse. Padre Cumello non si fermava, continuava chissà da quanto tempo a continuare il suo esorcismo e a lanciare in aria la sua formula. Vattinni fuori, diavolazzo della malora! Vattinni via, per il nome di Maria! Ci venire mai più per il nome di Gesù! Diavolazzo, diavolazzo, non mi rompere il cazzo! Diavoluna, diavoluna, non rompetemi il coglione! Padre Ferlito era incredulo di quello che stava sentendo, ma avvicinandosi sentì che era giusto, sentiva proprio quello. Quello era l'esorcismo di padre Cumella. Andò avanti ancora un po', dopodiché padre Cumella non ne poté più e stramazzò in terra. Allora padre Ferlito pensò di intervenire, si avvicinò e quando arrivò si rese conto che nel breve tragitto le lumache avevano completamente ricoperto il corpo di padre Cumella. Allora, non sapendo che cosa fare, pensò di mettergli una mano sulla fronte. E lì capitò un fatto, perché le lumache sul corpo di padre Cumella annerirono, rinsecchirono come prese da una vampa e morirono! Padre Ferlito appoggiò la mano in terra e anche lì, per 5 metri, le lumache facevano lo stesso lavoro, annerivano, rinsecchivano e morivano! Si guardò indietro, il tragitto che aveva fatto era pieno di lumache morte! Allora decise di fare la prova, fece 3 passi indietro e vide che le lumache morivano sotto i suoi piedi, annerivano, morte! Possibile che lui aveva il potere. Il potere ci venne come una frede. In quell'esatto momento padre Cumella aprì gli occhi, vide le lumache morte accanto a sé, pensò che era merito del suo esorcismo, si rialzò in piedi e ricominciò più in foga di prima a lanciare la sua formula. Vattinni fuori, diavolazzo della mano! Vattinni via per il nome di Maria! andarsene via. E sul sentiero per tornare a Montelusa ci aveva la testa che ci pareva come un ingranaggio che avesse perso tutto l'occhio, ingrippato. Non era possibile. Ma com'era possibile che veramente lui potesse combattere il diavolo? No, il potere lui, no. Decise di riposarsi. Si mise sotto un albero, si sdraiò e si addormentò per pochi minuti. Perché poi fu risvegliato da un grido. Ah. Un lamento. Ah. Come di femmina. Ah. Decise di andare a vedere che cosa succedeva. Si alzò, spostò un cespuglio e dietro il cespuglio vide che c'era una donna nuda, a cosce aperte, che si abbracciava e formicava con l'aria. In un lampo gli tornò alla mente un libro che aveva letto sul diavolone, in cui si diceva che il diavolo in certi casi poteva assumere forma di aria, e in quel caso l'erezione era molto grande e il fluido vitale caldo, copioso e molto fertile. Mentre pensava a queste cose, la donna continuava a formicare con l'aria. Vide che accanto c'era un giovane affacciato, interessato come lui a vedere questa scena, anzi più di lui, tanto che se ne partì, si avvicinò alla donna, si spogliò nudo e in un attimo, in un passo la penetrò. Fu un istante, una vampa di fuoco tra i due corpi. La donna aprì gli occhi risvegliandosi, buttò un terribile grido. E se ne andò via. L'uomo, il giovane, avvolto da una fiamma altissima, bruciò vivo davanti agli occhi di padre Ugo Ferlito, che vomitò, ci vide vomitare anche l'anima. E allora se ne ritornò a Montelusa e decise di cambiare vita. Così, de botto, si levò il vestito da prete, si mise quello da monaco, una croce di legno sul petto, si costruì con le sue mani una grande croce di 3 metri di lunghezza, con cui se ne andava campagna campagna a combattere un diavolone senza aspettarlo in chiesa, e glielo dava in testa a chi era indemoniato, e glielo dava in testa anche a chi ci scassava la minchia ogni tanto, tanto che il popolo diceva che padre Ferlito, padre maneggiava la sua croce meglio di come Orlando maneggiasse la sua Durlindana. E se ne andò a vivere come un eremita sulla montagna del Crasto, in una grotta da solo, mangiando il muschio della grotta e bevendo l'acqua della sorgente. Chi fu e perché il primo che decise di chiamare padre Ferlito padre Uhu? Questo nessuno se lo ricorda. Ma comunque è padre Uhu che andò a prendere il piccolo Michele Zosimo, se lo portò nella grotta, se lo tenne più di 2 anni e gli insegnò tutto ciò che sapeva, tutto ciò che sapeva sulla vita, sulla morte, sulla gente, sulle cose buone, sulle cose tinte. E poi Michele Zosimo se ne tornò a casa sua e diventò grande. E negli anni seguenti padre Uhu continuava ad andare a caccia di diavoloni. In Sicilia ci fu la siccità, poi ci fu la carestia, poi ci fu la peste. E tutti questi anni padre Uhu continuava. Fino al giorno in cui, quando disse che aveva riconosciuto il diavolone nel vescovo di Palermo, fu arrestato, consegnato alla Santa Inquisizione e abbondantemente torturato. Uno di questi giorni di tortura si accorse che accanto a lui avevano già preparato un grande calderone pieno di olio bollente e ci si buttò dentro da solo per far incazzare gli inquisitori, che avevano previsto di farlo bruciare vivo sulla piazza principale di Montelusa. E non cambiarono idea, lo fecero tirare fuori subito dal calderone. Padre Uhu era tutto morto, ci mancava la metà della faccia, pezzi di carne dappertutto. Gli inquisitori mandarono il suo corpo a Montelusa, lo affidarono a Don Martino Zappateri, il falegname e fabbricante dei pupi del presepe, e ci dissero di ricomporlo come una statua. Mastro Martino mandò a chiamare Zosimo. Zosimo arrivò, vide il corpo dell'uomo che gli aveva insegnato tutto quello che sapeva, l'uomo grazie al quale lui era diventato un uomo. Chiese a Mastro Martino un coltello, aprì la pancia del cadavere, tirò fuori l'interiore, le tagliò a pezzettini piccini piccini, Poi gliele diedi ai garzoni di Mastro Martino, dicendogli di andarli a distribuire nelle campagne, casa per casa. E a partire da quel giorno tutti i vedrani attorno a Montelusa si misero ad adorare quei pezzettini di carne come reliquie santissime. Poi Michele Zosimo ci disse a Mastro Martino: rifagli la faccia, rifagli il corpo con l'argilla, come sai tu fare. Ma all'argilla mescola pure quel composto di tua invenzione, quello che tu sai. E così fece Mastro Martino. E l'indomani sulla piazza principale di Montelusa c'era una grande catasta di legno. La Santa Inquisizione tutta era avvenuta da Palermo con tantissimi preti e se ne stavano tutta attorno alla catasta di legno. Ma a parte loro non c'era nessuno. Nessuno era uscito di casa. Venne portato il corpo di Padre Ugo, venne messo sopra la catasta di legno. Un prete giovane picchiò una torcia, appiccò il fuoco alla catasta, le fiammelle incominciarono e appena una fiammella toccò il corpo di Padre Uhu, un'esplosione terribile, pezzi di legno, tizzoni ardenti, tronchi interi si misero a volare colpendo gli inquisitori e i preti, ammazzandoli tutti, un massacro. Secondo la versione ufficiale, quella era la dimostrazione che Padre U era un demonio. Ma tutti a Montelusa e nelle campagne sapevano chi aveva avuto l'idea di trasformare il corpo di Padre U in una gigantesca bomba. E a partire da quel giorno Zosimo fu rispettato e onorato da tutti per quello che era diventato: un capo. E poi agli inizi del 1700, con la scusa della successione sul trono di Spagna, i potenti d'Europa si misero a fare quello che fanno sempre, la guerra. Francia, Catalogna, Baviera da una parte, Inghilterra, Austria, Sacro Romano Impero dall'altra, per 12 anni fu tutto un massacrarsi in giro per l'Europa. Fino al 1713, quando tutti questi signori si riunirono per firmare finalmente la pace di Utrecht. Ma che dici, Popò? Che dici? Tano, ti dico quello che ho sentito, che gli spagnoli, i francesi e tutti gli altri hanno firmato la pace di Utrecht. E chi è sto Utrecht? Perché minchia ne so io? Utrecht, che sarà una cosa che serve a fare la pace. Ma quello che so è che gli spagnoli, la Sicilia, l'hanno dovuta dare a uno che si chiama Amedeo di Savoia, che prima era duca e adesso è re. E che me lo dire questa Savoia? Ma che ne so io? Oh, guarda, io non so se non gli arriva. Chiediamolo a lui che ha studiato nei libri e le cose le sa. Buongiorno, compadre. Zosimo. A partire dai primi mesi di vita, tutti furono d'accordo che Michele Zosimo era il ritratto spaccato di suo padre. Zosimo, tu che sai le cose, lo sai di questo nuovo re? Eh sì, Amedeo di Savoia. E che me da dire questa Savoia? Savoia, Savoia, Tano, tu lo sai dove sta un papa? Certo. A Roma! E lo sai dove sta Roma? Certo, lontano! Ecco, la Savoia è un posto ancora più lontano, come due volte andare a Roma attraverso le montagne. E il Papa, chi ci è andato pure lui a Roma a fare la pace? No, il Papa con questa pace non c'entra. Quello continuerà a scassarci in cabasisi come ha sempre fatto e anche peggio di prima. E perché? E perché peggio di prima? Giurlanno, il fatto è che un papa e questo Amedeo non vanno d'accordo. E per noi le cose cambieranno? Giurlanno, e che vuoi che cambiano? Ma conosci la poesia? E che poesia? Quella che fa. Tutti lo sanno, lo sape pure uno. Calo Vittano, se lo picchia sempre in culo. Ti piace la poesia? Non si! Ma la poesia, volendo, si può cambiare. E come? Ah, così, per esempio. È scritto in cielo, il giorno sorgerà che futtemo lo re, o papa e a nobiltà. Oh, questa poesia mi piace assai! Eppure a me mi piace, ma cacciare la poesia è facile se uno è capace. Più difficile è cacciare un urno. Volendo, si può fare pure quello. Ma come? Noi non abbiamo armi, non abbiamo uomini, non abbiamo niente. Abbiamo solo gli occhi per piangere. Tanto, noi ci abbiamo la cosa forse più importante. Ci abbiamo la fantasia, che può essere l'arma più pericolosa. Ma come, Zosimo? Ma la fantasia non è una cosa che serve per sognare. Non solo, Giorlano, non solo. Usata al momento giusto, la fantasia può cambiare il mondo. Ma tu lo saprai quando sarà il momento giusto? Io credo che sì. Io ce lo farai sapere pure a noi? Fofo, quando sarà il momento giusto, non avrò bisogno di spiegarvelo. Il momento giusto è come il sole, anche se uno ha gli occhi chiusi, quando quello brilla, se lo sente sulla pelle. Ah! Boh! In pochi mesi, i piemontesi scontentarono tutti. Il papa, i nobili, i borghesi e naturalmente il popolo, che continuava a fare la fame più di prima. E la pandena della Livi, la pandena. Oh, ma che bella giornata! Oh, e la pandena della Livi, la pandena. Rosalia! Concetta, che piacere vedervi! Oh, mua, mua, mua. Che cosa ci fate da queste parti? Vengo dal mercato, dove me ne sono andata a vendere tantecchie di pane. E le avete vendute bene? Concetta, coi tempi che corrono, mi spiegate che cosa sta a significare la parola bene? E avete ragione, 2 anni che questi piemontesi hanno preso il posto degli spagnoli e le cose vanno sempre peggio. Sì, ma forse le cose stanno per cambiare. E come? 2 sere fa è tornato mio cugino Gelasio da Palermo e mi ha detto che gli spagnoli si sono ripresi la Sardegna e ora si preparano a riprendere la Sicilia. Madonnuzza mia! E che succederà allora? I spagnoli e i piemontesi si faranno la guerra pure da noi! Quello che saccio io è che 2 sere fa è arrivato anche una truppa di Zosimo. A me mi hanno mandato a dormire, ma io ho sentito tutto attraverso la porta. E che dicevano? Che dicevano? Dicevano che per ordine di Zosimo tutti gli uomini si dovevano trovare pronti e organizzarsi. Per fare che cosa? Questo non lo so, perché proprio mentre lo dicevano un cane si mise ad abbaiare e non ho sentito più niente. E che volete che facciano gli uomini nostri? Qualche cosa la stanno preparando. Rosalina, una cosa di sicuro i nostri uomini non la preparano, il mangiare. E io me ne devo andare a casa, che sennò stasera Turiddu non mangia. Auguriamo, Rosalia! Auguriamo, Concetta. Caro Marchese, le cose vanno male assai, le cose vanno sempre peggio. E perché mai, caro Duca? Ma come? Ma non avete sentito le ultime notizie? Gli spagnoli sono sbarcati a Palermo. E a noi che ce ne fotte? Come? Ma la gente se ne approfitta. I vetrani stanno chiedendo la morte di Pompeo Grugno, il vicario del viceré. E allora, a sentirvi, sembra che siate diventato un amico di questi piemontesi. Io? No! Almeno con gli spagnoli gli affari andavano bene. Questi piemontesi sono troppo organizzati, troppo precisi, sono troppo onesti. Mamma mia, che brutta parola che avete detto! Non ditela nemmeno per scherzo! Non scherzo, caro Duca, non scherzo! Non vi rendete conto che queste vetrani stanno preparandosi a fottere tutto all'aria? E allora? Lasciamoli fare! Se cacciano i piemontesi, a noi ci sta bene. Anzi, dovremmo aiutarli, farceli amici. E poi, quando tornano gli spagnoli, tutto ritornerà come prima. Che succede? Che succede? Eccellenza, eccellenza, una terribile esplosione! Il portone del castello è saltato! Gli spagnoli! Ma non li aspettavo così presto. Quest'altro rumore, che è? Che succede? Eccellenza, ci sono un centinaio di uomini! Oh, soldati, gli spagnoli! Gli spagnoli! Oh, ma quanti sono? Eccellenza, non sono spagnoli, sono vitrani! Quei forconi, quei bastoni! Vitrani? Ma come hanno fatto i vitrani a fare saltare il portone del castello? Con l'aiuto dei minatori! Non sapete che l'altra settimana dalla miniera sono sparite 3 casse di dinamite? Oh, ma quanti sono? Eccellenza, saranno 200! 200! 200! Ma calmatevi, caro Duca, tutto va bene. Venite, andiamo a goderci lo spettacolo dal balcone. Ma che stanno gridando? È morte ai piemontesi, che a noi va bene. Ma quelli del castello che fanno? Perché non succede niente? E che fanno? Si stanno cagando sopra. Oh, guardate, guardate, una bandiera bianca, si arrendono. Ve l'avevo detto che era una bella giornata. E guardate, i vetrani stanno entrando nel castello. E noi lasciamoli entrare. Venite, Duca, venite. Andiamo a berci un goccetto di zibina. È stato buttato in carcere. Zosimo ci va con una ventina dei suoi uomini e si ritrova davanti al vicario del viceré. Tutti quelli attorno a lui gridano: morte a Pompeo Grugno, morte a Pompeo Grugno! Il vicario si getta a terra in ginocchio, prega, implora: per l'amore di Dio, non fatemi del male, non uccidetemi, morte a Pompeo Grugno! Zosimo è confuso, non sente né odio né rabbia, ma sente l'odio e la rabbia in tutti quelli che stanno attorno a lui. Morte a Pompeo Grugno! Senza nemmeno sapere come, si ritrova con una spada in mano, alta, sopra la testa di Pompeo Grugno. Morte a Pompeo Grugno! Arruaro le navi, tante navi a Palermo, libera de sbarcar. lasci d'inferno. Narbar lo sole, arrestavo allo scuro che scuro Sicilia piangi tutto l'arangi libera di arrubaro son mazzo delle bisci che lamento che fanno a rubare lo sole. Sosimo, Sosimo, che hai fatto, Sosimo? Hai ammazzato un cristiano con le tue mani. Sosimo, ti sei scordato di quello che avevi sempre detto. Sosimo, guarda, puoi muovere. Stanno ammazzando i cristiani che non dici per il mondo. Fermo, Sosimo, fermo. Ma che fai, Sosimo, perché piangi? Perché non ti risparmi dove stai andando? Guarda, guarda, è un passato, guarda il sangue a terra, sono un medio discorsato, fai quel socio, socio, socio. Narrubaro lo sole, arrestavo allo scuro, che scuro Sicilia. Pianci, Sicilia, pianci, Sicilia, pianci, pianci, pianci. Era andato via, si era rifugiato in una stanza del castello da solo a piangere e a disperarsi. Per ore lo cercarono ma non lo trovarono. Alla fine Zosimo decise di scendere in piazza. Quando arrivò vide che la piazza era piena di gente, uomini, femmine, che cantavano, che ballavano, che facevano la festa. Ai balconi della piazza c'erano appesi per i piedi i cadaveri dei soldati piemontesi. Tutti li prendevano in giro, ci sputavano addosso, ci facevano vedere la minchia. Zosimo salì sopra un carretto, c'aveva gli occhi rossi, le guance scavate, pareva un fantasma. Guardò quello che succedeva e gridò: cosa state facendo? E la piazza ammutolì. Tutti si girarono a guardare. La violenza chiama la violenza. Un sangue chiama un sangue. Giurate insieme a me che a partire da quest'oggi mai più nella nostra città ci sarà un morto ammazzato per mano nostra. Zosimo si inginocchiò e uno per uno tutti nella piazza si inginocchiarono con lui. Lo giurate? Lo giuro, lo giuro, lo giuro, lo giuriamo. Lo giuriamo, Zosimo, lo giuriamo! Zosimo, tu sì che sei un uomo giusto! Bravo, Zosimo, hai fatto bene, tu sei un uomo giusto! Zosimo, devi restare per sempre il nostro capo! Zosimo, ti vogliamo il re! Devi diventare il re! Viva Zosimo il re! Viva Zosimo il re! Zosimo, Zosimo, quando sei bello, quando sei forte, quando sei bravo, i piemontesi e gli spagnoli, mandali a casa, calci in culo, ma nel lavoro e libertà, Zosimo, Zosimo, sei il nostro re. Fofo, abbiamo preparato tutto. E certo che abbiamo preparato tutto. No, no. Sì, un tappeto rosso che abbiamo preso dentro a palazzo, il trono che abbiamo messo sopra i gradini che portano alla cattedrale, Zosimo ci sta seduto sopra, guarda, c'è tutta questa... Sono venuti tutti! Che bello! Guarda quanta... Grazie di essere venuto, mi fa molto grazie, grazie anche a lei! Tutti sono tutti venuti. Ci sono! Bellissimo! Bene, vai a prendere la corona, facciamolo re, dai! Va bene! E dove l'hai messa la corona? Ma no, che ne so, tu dovevi portare la corona, valla a prendere, dai! No, tu mi dicesti che la corona la portavi tu! No, Tano, la corona la dovevi portare tu, Tano! Tano, che sta a significare questo? Tano, ci siamo scordati la corona! Minchia la corona, Tano! Ormai la gente aspettava da tantichia. Uno alzò un dito e disse: scusasse, ma che sta succedendo? Ci siamo scordati la corona! E Zosimo sentì quelle parole e ci venne da ridere. E Zosimo ci aveva un ridere che quando lui rideva tutti si mettevano a ridere tutto attorno a lui, e dalla prima fila incominciarono a ridere e ridevano fino al fondo della piazza come un'onda del mare, e tutti si ridevano e ridevano fino a quando dal fondo si sentì una voce che diceva: ce la do io la mia corona. A parlare era stato Gesuzzo, un poveraccio che chiedeva l'elemosina a quelli poveri come a lui, chiamato Gesuzzo perché aveva sempre una corona di spine sulla testa. Quando la gente vide che era Gesuzzo che aveva parlato, si girarono verso di lui e la piazza si divise a metà per farlo passare. Allora Gesuzzo avanzò, che era magari sciancato, arrivò sotto il palco, salì gradoni, andò da Zosimo, si levò la corona e gliela diede. E Zosimo prese la corona e la mostrò a tutti e disse: questa è la corona che ogni re dovrebbe portare. Le spine stanno a significare i doveri e le preoccupazioni che ogni re si deve accollare. Io, Michele Zosimo, accetto questa corona e mi proclamo re di Girgenti, e quello è l'antico nome che gli arabi diedero alla nostra città, mentre Montelusa era un nome inventato. E Zosimo si mise la corona sopra la testa. Se la schiacciò forte. E così forte che delle gocce di sangue ci scesero lungo le guance. E gli riempirono tutta quanta la faccia. E tutti gridavano: viva Zosimo, viva Zosimo, viva Zosimo. E Zosimo li guardò, allargò le braccia e disse: vi abbraccio a tutti! Bravo Zosimo! Viva Zosimo re! E Zosimo si stava già allontanando quando fu fermato e preso in disparte da un nobile, l'unico presente in sala, il marchese Boscofino, che se lo prese in disparte e ci disse: maestà, ma voi che siete un uomo di valore, di cultura, intelligente, uomo, vero, ditemi una cosa, sapete benissimo anche voi come andrà a finire questa storia. I nobili ancora non hanno preso parte. Quando tornerà il loro tornaconto contro di voi, vi faranno fuori. Allora, maestà, ditemi una cosa, voi, a tutta questa gente che vi segue, che ci state dando? Marchisi, questa è una cosa che voi non capirete mai. E perché? Perché non avete sofferto la fame e la miseria nera. Ma io ve la spiego lo stesso. Io, a tutta questa gente, ci sto regalando un sogno. 3 giorni. 3 giorni durò il regno di Zosimo. Il primo giorno è quello che abbiamo visto. Il secondo giorno venne fuori che gli spagnoli non stavano tornando. C'era stata una nave, sì, spagnola, che si era fermata davanti a Palermo, ma nemmeno erano sbarcati. Era stata lì 3 giorni e poi se n'era andata via. Via, lontano. Quando venne fuori questo, Zosimo capì di aver creduto avere una fantasia e di aver sbagliato il momento. E non dormì la prima notte. E non dormì la seconda notte, non sapendo come avrebbero fatto i veggiani a difendersi contro l'esercito piemontese. Il secondo giorno, poi, i nobili presero parte. andarono da Zosimo, che aveva proposto di dividere i feudi a metà. Metà ai nobili e metà ai contadini che ci avevano lavorato. Allora i nobili mandarono una delegazione da Zosimo a dirgli: maestà, i nobili offrono i propri uomini per combattere con voi contro i piemontesi. E dove sono questi uomini? Nascosti nei feudi. Zosimo sapeva di non potersi fidare dei nobili, ma non aveva alternative e disse: accettiamo. Quella sera stessa gli uomini dei nobili si unirono agli uomini di Zosimo, campagne e campagne. Però, nella notte, invece di organizzare insieme la difesa dalle truppe piemontesi, uno per uno gli scagnozzi dei nobili gli tagliarono la gola ai vidani di Zosimo. Il mattino dopo Zosimo si svegliò, scese le scale del castello, arrivò nella piazza, vide che non c'era nessuno se non il capitano di giustizia con due uomini che non erano i suoi. Capitano, che si chiamava Montaperto, uomo vero. Capitano, dove sono i miei uomini? Montaperto si girò e ci disse: Zosimo, ho ordine di arrestarvi. In nome di chi? Disse Zosimo. In nome di Amedeo di Savoia. Zosimo sorrise e poi richiese: dove sono i miei uomini? E il capitano Montaperto rispose: tutti morti. Maestà ha ordine di farvi impiccare sulla forca domani mattina. Ma voi siete uomo vero, giusto, allora ditemi una cosa. Devo fare bruciare tutta la vostra casa, tutto quello che può ricordare, anche lontanamente in futuro, che voi siete vissuto. C'è qualche cosa che volete conservare? Disse Montaperto. E Zosimo rispose: sì, una cosa c'è. Una cassettina di legno. La tengo nascosta in casa, vi dico dov'è. E che cosa c'è dentro? Il necessario per costruire un aquilone. E che viene a dire un aquilone? Che è il gioco di picciriddi in un momento come questo. E Zosimo rispose: niente, un aquilone è un aquilone. E così Zosimo passò la sua ultima notte, prima della forca, a costruire un aquilone. Questa è la vera difficoltà della doppia morte. La morte più amara, la morte più disgraziata, che non è morire senza sapere di morire, e questa sarebbe la morte semplice, ma morire sapendo di morire, quando ti fanno conoscere il momento preciso della morte tua. Quando vidi che questo pugno di rena che ti hanno posato davanti, dicendoti quando lo tempo se l'è portato via, granello appresso a granello, a questo momento stabilito la vita tua è finita. Quando un ponentino leggi, accomenza a fare si senti, e tu hai voglia di inserrare porte e finestre, hai voglia di sigillare minime fessure, hai voglia di tappare pietusa, niente, quel ponentino che non si riesce a capire da dove si infila, trova sempre modo di trasire e di fare scomparire l'arena granello appresso granello. E tu sai, tu capisci che ogni cosa che fai non la potrai rifare più dopo, semplicemente perché non ci sarà più un dopo. E perciò, se finisci di fabbricare l'aquilone, quando che hai finito di fabbricare l'aquilone, quando l'aquilone è fatto, quando l'aquilone è fabbricato, quando l'aquilone è finito, quando all'aquilone non c'è più niente da aggiungere, quando l'aquilone è pronto a volare, sei tu stesso che finendo di fabbricare l'aquilone hai dato una soffiata forte a quello che resta del pugno di rena e ne hai fatto volare via minimo la metà. E allora che faccio? L'ammetto o non l'ammetto quest'ultima strisciolina di carta velina? E se l'ammetto e l'aquilone è finito, non è magari finita la vita a me? Sai che ti dico? Io non ci penso più. Io lo metto l'ultimo pezzo di carta velina e ti vieni a pigliare quell'angulo tutti quanti. Ecco fatto, l'ho messo. Vediamo se la colla di farina tiene. L'aquilone è finuto. Buonanotte. Buonanotte, magari si sta cominciando proprio ora a fare gli ordini. Si conta e si buon conta. Cal mattino, quando una guardia andò a prendere Zosimo, vide l'aquilone e chiese: ma che ne volete fare di quest'aquilone? Ve lo volete portare sulla forca? Non si. Vorrei farlo volare. La guardia, presa da pietà, accompagnò Zosimo sul balcone. Lui teneva l'aquilone con due dita, delicato. Fuori soffiava quel bel vento mattutino. Zosimo aspettò la folata di vento giusta, né troppo forte né troppo debole. Quando arrivò, alzò il braccio, aprì le dita, e l'aquilone se ne volò in alto, e lui sentiva lo spago che gli scivolava sempre più veloce tra le dita. Si conta e si buon conta che quando portarono Zosimo sulla piazza, la piazza era deserta. All'imboccatura delle cinque stratuzze che portavano alla piazza ci stavano dei soldati per impedire alla gente di passare. Ma non c'era gente che voleva passare, non c'era nessuno. Ed è allora che Zosimo sentì il respiro. Non il respiro di un uomo solo, no, il respiro come di tanta gente che respirava piano per non farsi sentire. E quel respiro veniva da sopra i tetti. E Zosimo capì che erano venuti tutti, gli amici suoi, i compaesani, tutti erano venuti per accompagnarlo sul passo della morte. E tutti se ne stavano là a guardare sopra i tetti come a teatro, guardavano la piazza, guardavano il palco con sopra la forca e la corda che pendolava. Si conta e si buon conta che quando accompagnarono Zosimo ai piedi dei graduni che salivano sul palco, lui si fermò, abbassò lo sguardo e sul primo graduno vide una fila di formiche che attraversavano da dritta a mancina, e più ne sparivano a mancina più ne arrivavano a dritta, così che sembrava che la fila era sempre la stessa. Zosimo alzò il braccio, mise un dito a perpendicolo sopra la fila di formiche e poi ci parlò a una formica e ci disse: tu passa. A quella dopo ci disse la stessa cosa, ma l'altra la scarafazzò: tu no, tu sì, tu sì, tu no, tu sì, tu no, tu no, tu sì, tu no, tu sì, tu sì. Si conta e si buon conta che quando fecero segno a Zosimo di salire il graduno, lui si fermò sul secondo e si mise a parlare come se parlava a qualcuno, ma tutti dei tetti vedevano che non c'era nessuno. E invece qualcuno c'era, ma solo Zosimo lo vedeva. Era padre Uhu, con la faccia mezzo abbruciata. Padre Uhu, ma non siete morto? E tu credi che quando uno respira per l'ultima volta, poi è morto? No, la morte è una cosa lunga. La carne deve diventare tutta marcia, sempre più fitusa, fino a quando lascia le ossa pulite, pulite, tutte bianche. E poi ci vuole ancora tempo assai, prima che le ossa si sfarinano, diventano polvere. Io un augurio ti faccio di tutto cuore: che la tua carne diventi concime e che magari tra 1000 anni da quel concime nasce un albero. Si conta e si buon conta che quando Zosimo salì sul terzo graduno, si fermò un'altra volta si abbassò e si mise come ad accarezzare una bestia che non c'era. Ma la bestia c'era. Era una grande capra girgentana, col pellame marroco, le grandi minne scure, delle corna da leocorno. E la capra ci parlò a Zosimo e ci disse: io sono la capra che diede il mio latte a tua mace pochi minuti dopo che lei ti mise al mondo. E accanto alla capra c'era pure una gallina bianca, e la gallina disse: io sono la gallina che ci mise un uovo nella mano mancina per ridarle delle forze. Si conta e si bon conta che Zosimo sul gradino dopo si fermò un'altra volta e ancora si mise a parlare a uno che non c'era. Ma qualcuno c'era. Era un uomo tagliato a metà, ma che stava comunque in piedi e ci aveva in mano un cannocchiale. Mago Apparenzio! Il mago gli passò il cannocchiale, Zosimo lo prese, si mise a guardare in cielo. E poi si mise a guardare i muri della piazza. Mago Apparenzio, ma questo cannocchiale è rotto, non si vede nulla. Cannocchiale è buono, Zosimo. Sei tu che ancora respiri, ma sei già morto. I morti non vedono nulla, solo i vivi vedono. E i piccilini meglio che gli uomini grandi. E si conta e si boncuma. E quando Michele Zosimo salì sul palco, c'era il boia, Casimiro Capuano, uno che lui conosceva bene, che lo aspettava. E Casimiro ci disse che avrebbe fatto una cosa svelta, che a lui non ci piaceva fare soffrire i condannati per nulla. Da sopra i tetti tutti videro che Zosimo rifiutava il cappuccio nero. Casimiro Capuano, con quelle sue mani delicate che parivano di femmina, ci mise la corda attorno al collo e gliela sistemò bene, bene. Poi si girò verso il capitano delle guardie che stava a basso, in attesa del segnale. E il capitano alzò il braccio e proprio in quel preciso momento alzosi. Ci venne voglia di starnutare. Cercò di trattenersi, che non era il momento, ma non ce la faceva. E allora, signori miei, si conta e si buon conta una cosa che nessuno vive, ma che tutti sanno. Zosimo alzò una mano per grattarsi il naso, ma trovò qualcosa. Qualcosa che scendeva dall'alto, uno spago. E allora lui alzò lo sguardo e in alto, alla fine dello spago, vide l'aquilone che era tornato da solo e se ne stava immobile, a perpendicolo, sopra la sua testa, come se lo stava aspettando. E Zosimo, allora, proprio nel preciso istante in cui il capitano stava abbassando il braccio, si aggrappò allo spago con le due mani e sentì uno strattone perché l'aquilone riprendeva movimento e altezza e si mise a salire a forza di braccia sullo spago e più saliva e meno si sentiva affaticato, si sentiva sempre più leggero, sempre più libero. E poi a un certo momento Zosimo si fermò, guardò a basso, vide la piazza, vide le case, la gente sopra i tetti che già cominciava ad alzarsi e ad andarsene via, vide il palco, la forca, la corda e appesa alla corda una cosa, una specie di sacco che dondoliava. E alzosi. Ci venne da ridere e ridendo Zosimo ricominciò a salire in alto, sempre più in alto. mattina è un basilico. Ti porta la rosa marina, la siminzina e lo basilico. Oh, e alla ripò, ora vede lo vagito. E ti porta la rosa marina, la siminzina e lo basilico. Ti porta la rosa marina, la siminzina e il basilico. Oh figlio mio, lo santo massavo, e della verità mi ne speravo. E gli uccelli se la fetta dormia, e l'ormi figlio dell'arma mia. Se disse la fetta dormia. Lo spettacolo Il Re di Girgenti, dal romanzo di Andrea Camilleri, scritto, diretto e interpretato da Massimo Schuster e Fabio Monti. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Enoch Marrella, ideatore dello spettacolo Petrolino Infinito and Friends, a Roma, Teatro Trastevere, dal 3 all'8 maggio 2022, ben trovato. Grazie, grazie. Come stai? Io bene, tu? tutto bene, mi incuriosiva questo tuo progetto, ce ne parli? È l'evoluzione di una serie di appuntamenti che ci sono già stati a Roma su Petrolini, in cui io ho ricostruito parte del suo repertorio e frammenti delle sue memorie. In questa versione lo spettacolo sarà una sorta di varietà, perché per darmi il tempo di struccarmi e ritruccarmi, come faceva appunto Petrolini, ho dovuto ricorrere a una soluzione, cioè quella di invitare degli ospiti ogni sera diversi. E in quella mezz'ora io mi struccherò e mi ritruccherò da Nerone. Quindi ogni sera ci sarà una prima carrellata di personaggi presi dal repertorio di Ettore Petrolini, che saranno, nella fattispecie, Fortunello, Saramini, Gastone, un pezzo che si chiama Melanconie alla pizzaiuola, e si concluderà questa carrellata con l'Amleto. Dopodiché interverrà ogni sera l'ospite della serata e a seguire la mia riduzione di Nerone. Questo è il menù di ognuna di queste serate. I primi tre giorni avremo Fiorenzo Lopresti, il 3, il 4 e il 5. Il 6 verrà a farci compagnia Gabriele Linari, che tanto anche lui si è dedicato a Petrolini. E sabato 7 c'è un vero e proprio live di musica elettronica con il cantautore Caravaggio, che ha collaborato con me alla creazione di un brano che rivisita il Fortunello di Petrolini, e poi ci presenterà il suo nuovo singolo, farà una mezz'ora di live, mentre domenica la settimana si concluderà con Daniele Parisi, che porterà il suo Lucio Circe, ottavo re di Roma, e Elena D'Angelo, che ci leggerà un estratto da Mario Tobino, un autore che ricorda la sua esperienza di visione, di spettatore di Ettore Petrolini, e contestualizza il personaggio di Nerone all'epoca del Duce. Com'era iniziata questa tua passione per Petrolini? È stata una proiezione su di me, cioè, quindi non è partita nemmeno poi da me, nel senso che mi hanno riferito che io dovevo fare Petrolini e io l'ho fatto. Io lavoravo in un locale che si chiama Hotel Butter, cioè ci ho lavorato per 4 anni, e il direttore artistico di questo locale, un DJ imprenditore, Giancarlino, cercava sempre dei personaggi eccentrici da farmi fare per animare il suo locale, e la sera di Capodanno 2019-2020 lui ha avuto questa intuizione, si è fissato che io dovevo fare Petrolini. Allora effettivamente mi sono messo lì a cercare di capire in cosa consistesse Petrolini, perché Petrolini era un attore, poi lui faceva dei personaggi, e quindi ad uno ho cominciato a recuperare quello che potevo, anche andando, non so, alla biblioteca della SIAE, dove c'è un fondo dedicato a Petrolini con le maschere, i costumi, e a uno ho ricostruito una serie di personaggi che uno dopo l'altro poi ho provato, sperimentato in locali, piccoli teatri, e adesso diciamo siamo arrivati alla versione quella più completa. di questo progetto che abbiamo voluto chiamare Petrolini Infinito, nel senso che c'è tanto ancora da scoprire su questo artista, forse infinito. Cosa hai apprezzato della sua opera? Estetica, e soprattutto perché è stata la parte, secondo me, meno affrontata dagli artisti che finora hanno cercato di dedicarsi a questo padre, diciamo, della comicità italiana. Quello che mi ha fatto piacere scoprire è che c'era una cura per l'aspetto visivo molto molto approfondita, al punto che Petrolini, con alcuni dei suoi personaggi, per esempio Fortunello, è arrivato ad intercettare l'ammirazione, la stima e l'entusiasmo del movimento futurista, cosa abbastanza singolare per un comico, intercettare l'entusiasmo di un movimento artistico che poi fondamentalmente si occupa magari anche nello specifico di arte visiva o di altro, ecco, non è che vanno sempre insieme questi due mondi. E quindi quello che ho cercato di fare è anche ridare forma e colore a questi personaggi, anche cercare di rendere giustizia a Petrolini anche dal punto di vista visivo, ecco, non solo la parte, diciamo, folcloristica o i suoi personaggi, quelli legati alla romanità. Ho cercato di presentare un repertorio che mettesse in risalto anche tutta la ricerca formale di questo artista, non solo i testi e i personaggi. Questo, insomma, è stato il mio approccio. La scelta degli ospiti deriva da una sintonia con il tema trattato, cioè, nel senso, siamo come una grande tribute band di Petrolini, sia in modo diretto ma anche indiretto. Tutti questi artisti, secondo me, convergono, ecco, hanno qualcosa a che fare con lo spirito di Ettore Petrolini, anche solo per il fatto che hanno accettato di partecipare. C'è sempre un filo conduttore, potrei per ognuno presentare il lavoro, il percorso, e poi dopo chi verrà a vedere questo varietà petroliniano, insomma, vedrà che, insomma, l'attinenza è quella, sia con riferimenti più chiari come nel caso di Linari, e sia invece con riferimenti più indiretti come nel caso di Caravaggio con la musica elettronica. Qualche attinenza con Petrolini si noterà di sicuro. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Potete visitare il mio profilo personale e anche la mia nuova pagina personale, è Enoch Marrella, su Facebook, Enoch Marrella anche su Instagram, e Petrolini Infinito and Friends, la pagina evento di Facebook, dal 3 all'8 maggio, tutte le sere alle ore 21, anche la domenica, Teatro Trastevere, via Jacopo dei Sette Soli. Per i primi che si prenotano do anche una mano a parcheggiare. Lo spettacolo Petrolini Infinito and Friends a Roma, Teatro Trastevere, dal 3 all'8 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento all'ideatore del progetto, Enoch Marrella. A presto! Grazie Federico, un abbraccio! Con l'autrice e attrice Iris Basilicata per presentare il suo spettacolo Candy, Memorie di una lavatrice, schifosamente tratto da storie vere e mai lavate. A Roma, Teatro Lo Spazio, dal 3 al 5 maggio 2022, ben trovata. Grazie, grazie, buongiorno. Che cos'è questo spettacolo? Questo è un monologo al quale io tengo moltissimo, che ho scritto nel 2018 e parte da un'inchiesta del 2014 svolta dal settimanale L'Espresso su alcune situazioni di caporalato molto importanti che accadono nel Ragusano. Io ho letto l'inchiesta, mi aveva molto colpito e mi piaceva l'idea di far parlare però durante il monologo un qualcosa di inanimato. Quindi è tutto visto dal punto di vista di una lavatrice che si trova in questo luogo e quindi racconta quello che accade. Quindi le parti sono invertite, l'oggetto è il protagonista e c'è questa lavatrice Candy che parla di una sua grande amica che è Elena, questa rumena venuta dalla Romania per lavorare nelle serre del Ragusano e racconta la sua vita. Mm-hmm. E anche quello che succede a lei, alla lavatrice. È un monologo dolce amaro e io sono molto felice di poterlo portare in scena nella sua versione finalmente completa, perché abbiamo debuttato all'inizio come uno studio e ora invece siamo al completo. Com'è stata la scintilla che ti ha portato all'idea di realizzarne uno spettacolo? Io ho fatto l'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma, ho studiato drammaturgia lì e avevo scritto un breve raccontino su una lavatrice che si trova all'interno di un appartamento e vede quello che accade. E quindi poi mi è venuta da lì l'illuminazione dopo aver letto l'inchiesta, dopo essermi informata tanto su tanti articoli di giornale, ho visto molti video su questa orribile vicenda delle campagne del Ragusano e mi è venuto in mente che potevo fondere le due cose. Quindi ho fatto incontrare un oggetto inanimato che parla con le avventure, le disavventure anzi di una rumena schiavizzata nei campi a Ragusa. In parte ce l'hai già detto, però come hai immaginato la messa in scena? È tutto molto sopra le righe, è tutto molto favolistico. C'è questo personaggio che parla, che vive proprio come se fosse uno di noi e attraverso il sorriso racconta delle vicende molto, molto amare. È una lavatrice che sta studiando per diventare la miglior lavatrice d'Italia, quindi vuole vincere a tutti i costi questa fascia e racconta della sua amica Elena, la chiama in maniera molto sorridente però, povera disgraziata, e racconta le vicende orribili che accadono, però sempre con un filo ironico, perché volevo che lo spettacolo fosse appunto molto, molto ironico su questa vicenda purtroppo molto devastante e brutta. Rispetto ecco, alla cronaca, quali sono gli elementi che hai voluto sottolineare? Sicuramente rispetto alla cronaca, la storia in generale, perché di questa storia non sa nessuno, cioè c'è stata questa inchiesta nel 2014, poi ripresa nel 2017 e le vicende erano ancora nascoste e mi sono documentata moltissimo sulle condizioni di vita di queste braccianti rumene e anche sui rapporti e sui codici, sui linguaggi di codice che ci sono tra le rumene e i padroni, perché i padroni le schiavizzano sia a livello lavorativo che sessuale e ci sono proprio dei codici con i quali loro fanno capire che vogliono schiavizzare quella donna dal punto di vista sessuale e quindi ci sono dei meccanismi che loro utilizzano per dire ok, io vorrei che tu diventassi anche la mia schiava sessuale e le rumene poi devono rispondere a queste domande tramite una partitura assurda, tramite delle colazioni che loro fanno e quindi io ho voluto tenere questo piccolo codice che loro ti danno e poi tutta la vita che svolgono, lavorativa, di sfruttamento, le condizioni in cui vivono che sono condizioni assurde insomma. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? Lo spettacolo Candy, memorie di una lavatrice, schifosamente tratto da storie vere mai lavate, dal 3 al 5 maggio al Teatro Lo Spazio, in via Locri, 42, metro San Giovanni a Roma. Io sono Iris Basilicata, sarò lì con il mio monologo. C'è un sito internet del Teatro Lo Spazio? Sì, www.teatrolospazio.it e poi i biglietti si possono trovare su Viva Ticket. Lo spettacolo Candy, memorie di una lavatrice, schifosamente tratto da storie vere mai lavate, a Roma, Teatro Lo Spazio, dal 3 al 5 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento all'autrice e attrice Iris Basilicata. A presto! Grazie, grazie, a presto! Con Claudio Morici, autore e interprete dello spettacolo Alexo, a Roma, Auditorium Parco della Musica, sabato 7 maggio 2022. Ben trovato Claudio. Ciao, ciao, ciao a tutti. Che cos'è? È uno spettacolo dove per la prima volta non sono solo sul palco, ma sono con un assistente vocale, praticamente c'ha la voce mia. Però è un spettacolo vero e proprio, da inizio alla fine è la storia mia, cioè di Claudio, che un po' sono io, un po' lo sono io, che subito dopo il secondo lockdown si trova in un momento di difficoltà, insomma, c'ha tanti problemi come abbiamo avuto tutti, poi si sente solo, e allora si compra un assistente vocale, solo che non può spendere molti soldi, allora se lo compra tutto il Pignattara dai cinesi. E non è un assistente vocale come uno si aspetterebbe, si chiama Alexo, che appunto è un po' una specie di Alexa taroccato, però è maschio. E è assolutamente utile e intelligente per Claudio, perché Claudio lo utilizza per scrivere dei messaggetti su WhatsApp perfetti, che è lasciato con la ex, quindi deve rimettersi insieme con una persona. E Alexo, poiché è collegato con internet, ha a disposizione, ha accesso ai più grandi poeti della storia dell'umanità, alle frasi d'amore su Facebook che hanno fatto milioni di visualizzazioni, insomma prende un po' poeti non tradotti in italiano, messaggetto perfetto. È anche a conoscenza, diciamo, delle tecniche comportamentali di seduzione, dei psicologi russi, può accedere a qualsiasi tipo di informazione e ti scrive questi messaggetti in poche righe che assolutamente sono perfetti. Quindi Claudio, cioè io, ma non proprio io, riesce grazie a lui a conquistare una donna che gli piaceva, e solo che poi che succede? Se uno viene a vederlo, poi glielo dico, palco. Com'è nato tutto? C'è stato un periodo durante il lockdown che facevo molti video sui social, che poi hanno rimandato anche su Repubblica.it a propaganda, Rai News, insomma, hanno girato molti. Allora era diventato un mezzo espressivo vero e proprio, cioè mi divertivo anche, li facevo anche con tanta sincerità. Non c'era più il palco, però c'avevo questa telecamerina a 150 euro, la più economica sul mercato, e mi hanno inventato un modo per farli che era poi il mio, no? E questa moto comprendeva l'acquisto di oggetti dal cinese, nel senso che io vi scrivevo in un'oretta la sceneggiatura di questi piccoli video e poi prima di girarli io passavo sempre dal cinese e compravo gli oggetti che mi mancavano per girare, potevano essere, ne so, una bambola, una maglietta, poteva essere una pistola finta, li collezionavo anche dentro la mia casa, a volte li usavo più volte gli stessi, una spada da samurai, tutte cose che poi ti giravi e dicevi, cazzo, ho 50 anni e sto a campare con la spada da samurai giocato. Ed uno di questi oggetti era una cassa Bluetooth, effettivamente comprata dal cinese. Allora ho cominciato in video a parlarci, no? Ho pensato, il vocalizzatore dell'assistente vocale Carocco che parla romanaccio, assolutamente saggio, che invece era della solita Alexa, che è donna, no? Chissà perché, è gentile, no? E lì ho andato da un piccolo video in cui lui ti diceva che c'era un amico che ti diceva la strada più breve per raggiungere un posto, se te gli dai una stretta le soldi, così diceva Alex. E poi ho pensato, perché non continuare questo rapporto tra me e questo assistente vocale? Lì è andata una storia che è un po' un Cirano dei tempi nostri. In scena come funzionerà? Siamo io, lui e due sedie e un tappeto. Molto sobria, però non è mai stata così complicata la scena di uno spettacolo come questo. Addirittura questa volta è uno spettacolo prodotto, quindi questo tappeto con le due sedie è stato ideato insieme al teatro Metastasio di Prato, che mi ha ospitato per un mese, ha prodotto lo spettacolo, ha comprato il tappeto, ha scelto la sedia, però sempre io e due sedie. Roma per poi spostarti in Italia? Roma non è la prima tappa, in realtà l'ho fatto già qualche volta, ho preparato per Roma 5-6 posti, sono stato a Genova, ai Giardini Luno, Tassi, sono stato all'Aquila, ad Arsoli, a Bologna, a Teatri di Vita, insomma, qualche data l'ho fatta e adesso Roma è la più importante, un po' perché gioco in casa, un po' perché è il posto più grande dove lo faccio per adesso, ovvero l'Auditorium, la Sala Petrassi. Ci dai tutti i riferimenti web? Su Facebook, Claudio Morici, la pagina. C'è anche l'evento Alexo io con Claudio Morici sempre su Facebook. Lo spettacolo Alexo a Roma all'Auditorium Parco della Musica sabato 7 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento all'autore e interprete Claudio Morici. A presto! Ciao, ciao, ciao a tutti, a presto. Con Cristiano Petretto, uno dei curatori, per presentare la rassegna Quintescenza ad Ostia, Teatro del Lido, dal 5 al 31 maggio 2022. Ben trovato. Salve a te e a tutti i due ascoltatori. Raccontiamo cos'è. Quintescenza è un progetto triennale, siamo arrivati all'ultimo anno di programmazione e noi abbiamo deciso in questi anni di coniugare gli aspetti scientifici con una alta fruibilità teatrale, quindi ci siamo sforzati di proporre al nostro pubblico una rassegna che sia di approfondimento scientifico ma allo stesso tempo godibile e fruibile da parte di tutti gli spettatori. Quanti sono i lavori di questa rassegna? Quest'anno proporremo 4 bellissimi spettacoli, 2 conferenze di approfondimento e un laboratorio veramente particolare, perché quest'anno il tema è la connessione e quindi ci accentreremo sull'intelligenza artificiale. Ce ne parli un po'? Inizieremo il 5 maggio, la manifestazione si terrà tutta al Teatro del Lido di Ostia, il 5 maggio alle 21 con uno spettacolo dal titolo Io sono robot, appunto, della Fondazione Sipario Toscana, in cui in questo caso verrà proposto per i ragazzi più piccoli, dai 6-10 anni, il target primario, in cui faremo un percorso all'interno della robotica, infatti è uno spettacolo che ha la collaborazione di una importantissima società di robotica, in cui teatro e robot finalmente potranno comunicare sulla scena in maniera istruttiva ma anche molto molto divertente. Poi proseguiremo il 10 maggio con il cervello complesso, in cui andremo ad approfondire i temi, in questo caso attraverso una conferenza sulla neuromedicina a cura di Francesca Macciocca, e poi lavoreremo ancora sui robot con un laboratorio Cosa può un robot, dove dei ragazzi più piccolini delle scuole elementari e medie potranno manovrare a distanza un robot all'interno di un labirinto e cercare di riportare Cappuccetto Rosso a destinazione. E poi avremo un debutto il 20 maggio con la compagnia Valdrada, debutterà col suo spettacolo Marco non c'è, e anche qui avremo dedicato per i ragazzi dalle scuole medie in poi fino agli adulti, dove qui invece l'aspetto scientifico sarà sostenuto da una forte componente teatrale. E arriveremo al 24 maggio, di nuovo una conferenza spettacolo, una conferenza in realtà più che un spettacolo, da un tema molto interessante. Dico spettacolo perché il tema è: le macchine potranno mai sostituire il genio artistico? E credo che sia una domanda che il mondo artistico si pone spesso, anche con un po' di terrore forse, ma in realtà affronteremo proprio dal punto di vista delle neuroscienze quelli che sono i processi creativi e quello che può la robotica in questo momento mettere in campo. Torneremo con gli spettacoli dal vivo il giovedì 26 maggio, sempre in serale alle 21, con lo spettacolo Noi Robot della compagnia Ardito Desio, che è una delle compagnie più importanti per quanto riguarda l'aspetto della scienza coniugata con la poetica teatrale. E andremo a chiudere il 31 maggio con un bellissimo spettacolo che verrà per la prima volta a Roma, Le intelligenze artificiali a Wellness. Questa è una coproduzione del Teatro Miela con un teatro sloveno, e qui insomma ci interrogheremo su cosa potrebbe accadere se un'intelligenza artificiale entrasse in un corpo umano e si rilassasse in un wellness. Quindi anche qui l'aspetto scientifico viene coniugato con ironia e con estrema leggerezza, ma sempre con una grande puntualità di approfondimento scientifico. In chiusura ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? Allora, innanzitutto voglio dire che la manifestazione è interamente gratuita, quindi tutto il pubblico potrà accedere agli spettacoli senza dover pagare nulla, e questo credo che in questo periodo sia un elemento importante. Trovate i nostri riferimenti su teatrodellido.it o su Facebook Teatro del Lido, sul Facebook di Associazione Culturale Affabulazione, e abbiamo anche una pagina specifica su Facebook che è Quintescenza, appunto. Non c'è bisogno di prenotazione obbligatoria, quindi finalmente dopo 2 anni c'è l'accesso libero al teatro, e ci fa piacere accogliervi, speriamo molto numerosi come negli anni precedenti, per poter finalmente tornare a teatro e divertirci ma anche imparare qualcosa di importante. La rassegna Quintescenza ad Ostia, Teatro del Lido, dal 5 al 31 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Cristiano Petretto. A presto! A presto, grazie a voi! Con Ilaria Iovin e Roberto Mariotti, autori del graphic novel Volo senza un grido. Ben trovati! Ciao, ciao Federico. Ciao a tutti. Ce ne parlate? Questo è un progetto che deriva da una sceneggiatura scritta da me, parliamo del 2002. Meno, una sceneggiatura per un film che poi non si è mai fatto finora. La sceneggiatura era sulla strage di Piazza Fontana e sulla morte del ferroviario anarchico Giuseppe Pinelli, soprattutto. E dunque questo film appunto non si è mai fatto, se non che attorno al 50° anniversario appunto della morte di Pinelli, Ilaria mi ha suggerito di tirar fuori da quella sceneggiatura un fumetto e quindi trasformare quello che doveva essere un film in qualcosa di diverso, chiaramente, non solo con un altro linguaggio ma anche con un'altra chiave, perché quello era un film che ricostruiva tutto quello che precedeva la strage, la morte di Pinelli, mentre in questo caso abbiamo affrontato la storia dal punto di vista della moglie di Pino, e quindi prendendo spunto dalla lunga intervista che ci rilasciò a Piero Scaramucci nel 79-80, insomma. Questa è la genesi, e quindi ecco, dare voce di nuovo anche qui a una figura femminile, in omaggio anche a tutte le mogli, le madri, le sorelle, le figlie che rimangono a lottare per avere giustizia dopo aver tragicamente perso un loro caro, come appunto nel caso della vicenda di Pinelli. E insomma era interessante vedere la narrazione della vicenda da questo punto di vista, e la sfida è stata anche quella soprattutto essendo in contatto e avendo fatto seguire il work in progress della scrittura e poi della realizzazione del libro alla famiglia, è stata una sfida anche emotiva trasformare la voce narrante in una prima persona. Questo per rendere tutto molto più vivo, più vicino, però naturalmente era rischioso sapendo poi che Licia assolutamente ancora in vita, quindi insomma c'era molto, no, l'ansia di corrispondere a quelle che è stata la verità dei fatti, la realtà delle sue emozioni. Però ecco, abbiamo il beneplacito, la benedizione di Licia che ha apprezzato tantissimo questo adattamento e questo devo dire che è un nostro grande orgoglio, insomma, perché stimiamo molto la sua figura, anche la severità, se vuoi, la dignità della sua figura, del suo pensiero, e quindi ci fa molto molto piacere avere il suo placet. Rispetto a quell'intervista, su quali elementi avete voluto concentrarvi? Ci siamo immaginati in questo adattamento bello corposo di questa intervista, abbiamo immaginato la genesi e quindi ciò che ha portato questa donna così discreta, così severa, così insomma comunque anche dignitosa nel dolore, cosa ha portato a decidere di rilasciare un'intervista per raccontare finalmente tutta la vicenda laddove a livello di giustizia, di tribunali non era stato ancora possibile mettere in fila tutti i fatti. Quindi praticamente il graphic novel ha un tempo presente che è l'anni 80 quando poi ha deciso di rilasciare questa intervista e poi il flashback della ricostruzione dei fatti. Quindi ecco, abbiamo creato questo gioco temporale, insomma, tra presente e passato. Cioè, da autori abbiamo cercato di immedesimarci nel pensiero, forse anche nella frustrazione di Licia, che aveva visto nel 75 mettere una pietra tombale dalla sentenza, la famosa sentenza D'Ambrosio, e che vedeva sfumare la possibilità anche di continuare a far parlare di questa vicenda, e quindi tutto questo appunto dal 75 al 79 abbiamo immaginato questa sorta di suo travaglio, appunto anche perché essendo da sempre una donna riservata, per lei il dover a un certo punto mettere nero su bianco tutta quella storia, abbiamo immaginato insomma che fosse stata insomma una prova anche per lei, e quindi la nostra storia ruota tutto attorno a questo travaglio, appunto. E poi appunto la decisione a livello di scrittura, linguistico, di usare questa prima persona e questo tu rivolgendosi appunto lei in prima persona a marito e compagno che non c'era più, e quindi un modo di scrivere appunto questa voce narrante che in questi termini è molto intimo. E anche qui, come anche in altri nostri prodotti, abbiamo giocato sull'accostamento tra la storia privata personale del singolo e poi una storia che in questo caso è diventata pubblica, è confluita poi nella storia nazionale, e per cui questa prima persona, questo rivolgersi direttamente di questa moglie al marito non più vivo, voleva dare un calore e una vicinanza a tutta questa vicenda, nonostante poi fosse anche una vicenda nazionale, una vicenda finita nella storia con la S maiuscola. Per saperne di più rispetto alle presentazioni, ci lasciate dei riferimenti internet? Sul sito, sulle pagine social della Becco Giallo Editore, possiamo dire che su Roma abbiamo già fissato una presentazione a Casetta Rossa, Garbatella, per il 4 maggio, e adesso stiamo appunto organizzando con la casa editrice altre presentazioni, però ecco, le pagine social, anche quelle nostre. Quella nostra è via film e quelle personali, chiaramente. Graphic novel Volo senza un grido. Un saluto e un ringraziamento agli autori Ilaria Iovine e Roberto Mariotti. A presto! Ciao a tutti, grazie. Ciao, grazie Federico, ciao a tutti. Con Marco Cicolini, direttore artistico della quinta edizione di Arti in Vita, Festival Internazionale degli Abruzzi, dal 29 aprile al 15 maggio 2022. Ben trovato! Buongiorno, ciao Federico, ciao a tutti. Ce ne parli? Il festival nasce nel 2018 con questa vocazione all'internazionalizzazione, ma soprattutto per questa collaborazione con la Francia, in particolare con il Théâtre de l'Été di Parigi, con il quale portiamo in Abruzzo diverse compagnie, non solo di spettacolo dal vivo, ma anche installazioni visive, ospitiamo artisti di rilievo internazionale che magari hanno anche soggiornato a Villa Medici a Roma, hanno avuto delle residenze lì. Li facciamo venire qui in Abruzzo e li facciamo soggiornare tornare, gli diamo un tempo e un luogo per la creazione, cosa che nel tempo sta iniziando a diventare il tratto un po' distintivo di quello che facciamo, perché non sono semplici residenze, ma sono momenti anche in cui gli artisti riescono a trovare uno spazio diverso da quello convenzionale che di solito c'è nelle città, ma soprattutto un ambiente diverso, e spesso con loro, anche per quanto riguarda la direzione artistica, gli lasciamo totale libertà. E l'esempio è come Simon Rubì, che è un videoartista che è il secondo anno che ospitiamo, che l'anno scorso lui sta lavorando ad un progetto a lungo termine, si chiama Pangea, ed è sui movimenti tellurici, prende come spunto proprio la geologia abruzzese in collaborazione con Claudio Faccena, che è un geologo che insegna a Roma 3. Lui l'anno scorso, dopo aver fatto il suo primo lavoro, ha visto una chiesa sconsacrata, ci ha chiesto di poterla visitare, l'abbiamo fatto entrare e ha deciso di lavorarci poi per quest'anno. La sua installazione sarà aperta venerdì 29 aprile per l'inaugurazione di Arte in Vita. Questo è un aneddoto che questi giorni stiamo ricordando spesso, proprio per far presente quello che succede con le residenze, che non è un semplice venite e create quello che ci avete proposto, ma è anche sentitevi liberi di interpretare il territorio come meglio credete. Gli appuntamenti sono molti quest'anno, mi limito a segnalarvi quelli di questo primo fine settimana, che oltre a quello di Simon Rubì, La memoria delle cose, ci sarà anche un'ora prima in una chiesa sconsacrata accanto la performance di Alice Rende, una contorsionista che farà questo spettacolo in un cubo, lo chiama Circo per un cubo di plexiglass, una performance sia a livello di studio del corpo e sia a livello poetico molto bella da vedere. E poi sabato e domenica abbiamo la prima nazionale della nostra residenza più grande, che è in collaborazione con il Théâtre 14 di Parigi, con cui collaboriamo da 2 anni. Per lo spettacolo Non siamo qui per scomparire, che in questi giorni stiamo riadattando la versione italiana. Dopo lo spettacolo ci sarà anche un incontro con alcuni docenti dell'Università di Chieti, proprio perché lo spettacolo tratta del tema dell'Alzheimer in maniera molto poetica, e ci teniamo a fare un incontro tra la parte artistica e la parte più scientifica. Questo confronto tra scienza e arte è una delle linee che portiamo avanti maggiormente per quanto riguarda la direzione artistica, e il tema che quest'anno si è delineato dopo che abbiamo iniziato a fare vari incastri è proprio quello della memoria, intesa come che cosa resta dell'individuo quando la memoria scompare. Questo primo fine settimana, diciamo, le performance che ci saranno sono proprio un simbolo dell'intera programmazione, che poi trovate per intero sul sito di Arte in Vita. Hai detto molti spettacoli, possiamo più o meno quantificarli, e poi volevo sapere quanti saranno i luoghi. Gli spettacoli sono 8, senza considerare le repliche, nel senso che poi molti di questi sono in replica. Ci sono spettacoli itineranti, come ad esempio Il Camioncino, che è un progetto di Anne-Lise Binard e Antonia Valente, con cui perseguiamo quella che è la linea anche sociale del festival, oltre che artistica, che è la nostra priorità, la qualità artistica. Però con questo progetto Camioncino, ad esempio, le due artiste porteranno la musica in posti dove le persone non possono andare a vederla, quindi case di riposo, piazze, scuole, ed è uno degli aspetti che cerchiamo di portare avanti assieme alla qualità artistica. Quindi in tutto ci sono più di 20 spettacoli se consideriamo le repliche. I luoghi invece quest'anno aumentano, ogni anno aggiungiamo un pezzettino, perché l'asse principale su cui lavoriamo è quest'asse che è la strada Marrucina, che è la vecchia linea Gustav che va dai piedi della Maiella, che è il massiccio montuoso che abbiamo qui nella parte tra Chieti e Pescara, e la strada Marrucina parte dalla Maiella e arriva fino al mare Adriatico. Lungo questa strada ci sono 6 comuni, sono Penna Piedimonte, Guardia Grele, Orsogna, Arielli, Crecchio, Ortona, scendendo verso il mare. E poi quest'anno abbiamo aggiunto anche un progetto fuori mura, perché non è in un piccolo borgo ma è a Pescara, dove ci sarà il debutto di una compagnia romana residente a studio a Tor Pignattara, che sono Basti Caimmi, che hanno già fatto un periodo di residenza qui al Teatro Comunale di Orsogna, saranno in residenza allo Spazio Rossellini per ATCL, e poi debutteranno il 10 e 11 di maggio al Teatro Florian di Pescara. Non sono tutti luoghi convenzionali, nel senso che lavoriamo sia in teatri che in chiese sconsacrate, come vi dicevo prima, ed è questa pure un po' la sfida del festival, perché anche gli spettacoli che spesso riadattiamo, oltre ad un adattamento artistico, subiscono un adattamento tecnico per via delle strutture particolari dove lavoriamo, quindi c'è veramente uno scambio continuo tra la parte artistica, la parte tecnica, lo staff generale del festival che accoglie e filtra quelle che sono le esigenze delle equipe francesi che vengono. Tutto questo ovviamente grazie anche al sostegno quest'anno dell'Institut Français, che da quest'anno ci segue, verranno a vedere gli spettacoli, ci aiutano nella promozione, proprio perché questo filone italo-francese è una delle linee che speriamo di sviluppare sempre di più, anche di creare uno scambio tra Italia e Francia in questo senso. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web? Il sito dove si trova veramente tutto è www.artinvita.com. Poi Facebook lo trovate come Artinvita Festival e anche Instagram. I biglietti sono in vendita su Marte Ticket, si possono acquistare online, oppure se volete venirci a trovare qui si possono acquistare anche direttamente la sera dello spettacolo. E ovviamente il bello di partecipare ad un festival così è anche che alla programmazione, al calendario, agli spettacoli si può affiancare anche una visita del territorio, che in questo periodo è magnifico perché c'è la montagna ancora innevata e il mare quasi utilizzabile, diciamo, si può fare il bagno quasi. Quinta edizione di Arte in Vita, Festival Internazionale degli Abruzzi, dal 29 aprile al 15 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Marco Cicolini. A presto! Grazie, a presto! Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.